che, fuori discussione che la Bibbia sia uno dei libri religiosi più attaccati, alcuni dicono che non è la parola Dio. Altri dichiarano che i testi originali sono andati perduti, perciò non può essere affidabile. Altri ancora non la leggono perché è difficile da comprendere. Certuni sostengono che non serve leggere perché tanto ognuno le fa dire quello che vuole. E infine, molti non la leggono perché non sanno più a chi dare ragione. Sembra che la Bibbia sia un libro da evitare in tutti i modi, ma questo atteggiamento nei confronti della parola di Dio non è nuovo. Vi sono alcuni che sostengono che se fossero stati al tempo di Gesù avrebbero creduto alla parola di Dio perché era più facile. Così mi propongo di dimostrare che veramente non c'è. È nulla di nuovo sotto il sole, e che per credere che la Bibbia sia la parola di Dio, le difficoltà di oggi sono le medesime di ieri. Prenderemo 6 esempi. Iniziamo dicendo che al tempo di Gesù come oggi non c'erano gli scritti originali, e che anche Gesù, come gli apostoli e i primi cristiani, leggevano su di una traduzione. Già questo primo aspetto è molto significativo, perché sono troppi coloro che si lamentano di non possedere i testi originali e di avere solo delle traduzioni, quasi che queste non avessero autorità in materia di fede e di condotta. È vero che una traduzione è imperfetta e che ogni versione contiene delle imperfezioni, ma nel suo insieme il pensiero di Dio non è mai stato modificato o alterato. Se diamo ad un bambino di seconda elementare il compito di copiare la Divina Commedia, commetterà qualche errore, ma non traviserà il pensiero di Dante. Gli studiosi hanno ormai assodato che Gesù, gli apostoli e i primi cristiani leggevano una traduzione in greco dei libri ebraici, chiamata la Settanta. Da dove arrivava questa Settanta? Tolomeo Filadelfo 285-247 a.C. incaricò 72 erudite ebrei di tradurre tutto l'Antico Testamento in greco volgare, koiné. Per questa ragione, la traduzione venne chiamata la LXX di 70. Il Pentateuco, cioè i primi 5 dei 39 libri che formavano il canone ebraico, fu terminato al tempo di Tolomeo, mentre il resto dell'Antico Testamento finì di essere tradotto verso 150 a.C. Così la versione dei 70 fu adottata come testo dell'Antico Testamento da Gesù, dagli apostoli e dai primi cristiani. Una prova che al tempo di Gesù si leggesse la 70 come testo della parola di Dio ci viene dalla traduzione del versetto 7 e 14 di Isaia riportata da Matteo al capitolo 1 e versetto 23. In riferimento nell'ebraico, in Isaia leggiamo: "Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele." Nelle nostre versioni dell'Evangelo di Matteo troviamo scritto: "La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi." La differenza è evidente. In ebraico abbiamo una giovane che partorirà, mentre nelle nostre versioni abbiamo una vergine. Come mai questa apparente discordanza? Perché le citazioni dell'Antico Testamento, riportate nel Nuovo Testamento, sono prese dalla versione dei 70, che è la più antica traduzione del testo ebraico in lingua greca. Nel testo ebraico abbiamo invece alma, cioè giovane, mentre nella traduzione greca abbiamo parthenos, cioè vergine. È vero che la differenza è notevole, ma complementare e non contraddittoria. Il testo in ebraico mette in evidenza chi è che partorirà. Il testo in greco mette invece enfasi la qualità di questa giovane, cioè vergine. Perciò non vi è nessuna ragione di dubitare che la Bibbia sia parola di Dio, soprattutto perché Gesù ha citato la 70 come un libro ispirato da Dio. Anche al tempo di Gesù come oggi, l'interpretazione della parola di Dio era difficile. Alcune discussioni di Gesù con i farisei e i sadducei erano proprio inerenti ad un modo di interpretare la parola di Dio. Una delle diatribe più conosciute era in merito al divorzio. Una scuola rabbinica riteneva lecito il divorzio per delle ragioni banali, un'altra scuola solo in casi gravi ed eccezionali. Chi aveva ragione? Forse la parola di Dio era falsa perché vi erano varie interpretazioni in merito a dei versetti? Un'altra volta un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù rispose, «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Luca 10 e 25. Il che voleva dire, «Cosa sta scritto nella legge?» Come l'ha intesa? Come l'ha interpretata? Non c'è e nulla di nuovo sotto il sole, perché anche oggi ci sono dottrine interpretate diversamente, per esempio quella della predestinazione. Cosa fare? Non leggiamo più la Bibbia, o consideriamo queste divergenze come una sfida per applicarci a studiare seriamente la base della nostra fede. Io credo, come molti, che la parola di Dio sia sufficiente per guidarci nella verità. Al tempo di Gesù, come oggi, vi erano delle persone legaliste, cioè prendevano alla lettera ciò che era scritto nella legge senza rispettarne la sostanza. Come un padre che ordini a suo figlio di comprare delle pesche. Lui torna a casa con le pesche, però tutte marce. Il figlio ha obbedito all'ordine, ha messo in pratica la volontà del padre, ma non ha osservato l'intenzione dell'ingiunzione. Così era il tempo di Gesù. L'Eterno Dio aveva dato il sabato come giorno di riposo, e per la cultura ebraica il sabato era, ed è, un giorno importante e sacro. I sacerdoti, ligi alla legge, ne avevano fatto il loro cavallo di battaglia, per cui un uomo che non osservava il sabato commetteva un grave reato. Infatti, nella legge, chi violava il sabato doveva essere lapidato, e forse per questo i farisei avevano proibito ogni tipo di lavoro, portando all'esasperazione il comandamento. Facevano applicare il comandamento, ma non l'intenzione per la quale il comandamento era stato dato. Anche oggi vi sono molti figli di Dio che sono legalisti, che si basano su passi biblici, come facevano del resto i farisei, ma non tengono presente lo spirito del comandamento. Quando l'Eterno Dio ordinò alla donna di non vestirsi da uomo e l'uomo di non vestirsi da donna, Deuteronomio 22:5, non si riferiva all'indumento in sé, ma che non ci fosse promiscuità con gli abiti, in modo che si vedesse subito che era una donna, era tale, e viceversa. Vi sono poi tante situazioni che vengono giudicate con la legge e che è impossibile elencare, ma se chi per valutare usa la parola di Dio fosse sempre motivato dall'amore, che tiene conto del lato umano, forse ci sarebbero di gran lunga meno condanne. Inoltre, al tempo di Gesù, come oggi, vi erano dei commentatori delle scritture che travisavano il pensiero di Dio. Il profeta Geremia stigmatizzò queste persone. Come potete dire? Noi siamo saggi e la legge dell'Eterno è con noi. Ma ecco, la penna bugiarda degli scribi l'ha resa una falsità. Geremia 8:8. Anche oggi, più che mai, abbiamo persone specializzate nel commentare la Bibbia, ma purtroppo, anziché tagliare rettamente la parola della verità, la falsificano. Cosa fare? Buttiamo alle ortiche la parola di Dio? No! Buttiamo piuttosto alle ortiche le persone. Anche al tempo di Gesù, come oggi, vi erano delle persone che osservavano la tradizione dei padri per non ubbidire la parola di Dio. Il brano di Matteo lo mette in evidenza. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi, e gli dissero, «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?» Ma egli rispose loro, «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione?» Matteo 15:1-3. Osservare la tradizione non è sbagliato, perché ogni popolo e cultura ha le sue tradizioni, ma quando la tradizione diventa un pretesto per non osservare la volontà di Dio, allora ciò che è lecito diventa illecito. I farisei avevano di tradizione di lavarsi le mani prima di mangiare, e Gesù non sempre lo faceva, ma mentre i primi osservavano queste regole di poca importanza, trasgredivano dei comandamenti di Dio molto importanti. Anche oggi vi sono persone che combattono a spada, tratta per delle cose molto insignificanti, e non considerano le più importanti. Senza ombra di dubbio, tutti dovremmo promuovere la fede, l'amore e la speranza, le tre virtù teologali fondamentali senza le quali non possiamo piacere a Dio, e non portare avanti tradizioni, o punti di vista che favoriscono dispute e contese, e meglio perdere una disputa che perdere un fratello. Infine, anche al tempo di Gesù, come oggi, la Bibbia veniva usata per scopi malvagi. Leggiamo un esempio nel Vangelo di Giovanni, nell'episodio che narra del processo di Gesù. Ora, quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie, si misero a gridare, dicendo: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Giovanni 19, 6 a 7. Gesù è stato condannato dai giudei non con le leggi umane, ma con la stessa legge che lui aveva promulgato e osservato scrupolosamente. Da un punto di vista ciò è assurdo, ma una legge santa e perfetta, usata male, può servire a scopi malvagi. Il diavolo stesso, per i suoi fini maligni, usò la parola di Dio con l'intenzione di tentare Gesù. Le cose dopo millenni non sono cambiate, anche oggi con la parola di Dio si possono accusare, condannare, crocifiggere persone innocenti. Dunque, nulla è cambiato nei confronti della Bibbia. Se tu sei uno di quelli che ha difficoltà ad accettare la quale parola di Dio, se ti lamenti che non esistono i testi originali, se per te è difficile da comprendere, se vedi che ognuno le fa dire quello che vuole, se non sai più a chi dare ragione, è il momento di leggerla e studiarla sul serio. Dio non ti giudicherà per come gli altri hanno tenuto in considerazione la sua parola, ma guarderà te, solo te. Perciò, se la riponi nel tuo cuore, se la mediti giorno e notte e l'osservi, hai solo da guadagnare. Perché i cieli e la terra passeranno, ma le parole di Cristo sono eterne. Gennaio 2005. Contributo. La Bibbia. Libro di oggi, edizioni Pantico Testamento Moss, John Stott. Ellero.